finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it attraverso la funzione podcast. Scaricateci. Noi ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24 con le nuove e freschissime puntate del nuovo anno. Un saluto e ancora un grandissimo augurio di buon 2016 da Sergio Nava.